partita dalla fine del corteo che è appena arrivato in piazza Cavalleggeri di fronte alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Ci sono stati gli ultimi discorsi al camion, stanno continuando gli slogan, abbiamo sentito più volte durante il corteo, in particolare alla fine del corteo, il nome di Lorenzo Bargellini, compagno sempre in lotta anche a fianco del popolo curdo. E quindi, che non so, volete sapere qualcosa in particolare? Ma no, ma siete arrivati, quindi più o meno immagino la dinamica sarà un po' di conclusioni al megafono. Esatto, siamo arrivati, ci siamo appunto fermati in piazza Cavalleggeri nell'immediata prossimità del consolato tedesco. Anche loro hanno ricevuto in regalo un bel carro armato di cartone e anche un gran petardone che è esploso proprio nei pressi della loro porta. Comunque, quindi questa è, sì, ci sono le ultime chiacchiere, gli ultimi discorsi di chiusura del corteo e può prevedere che insomma si scioglierà nel giro di pochi minuti. Le forze di polizia sono presenti, hanno seguito sia davanti che dietro il corteo lungo tutto il tragitto, non ci sono stati scontri, neanche tensioni, si può dire. Va bene, va bene. Il corteo proseguito tranquillo, tanta gente come ci raccontavi, quindi insomma direi tante anche le voci che hanno partecipato e siamo riusciti un po' a beccarne almeno qualcuna. E niente, ti ringrazio e ci risentiamo a breve. Bene, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao ciao. Allora, e con questo io direi che vi possiamo salutare, vi possiamo rimandare all'ascolto della nostra meravigliosa bobina e dei programmi in replica per il sabato pomeriggio, probabilmente, no, forse